Ora 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, right later, boot, steel toe. Con la continente, ho capito. Chissà che cazzo di canari. Gabriela. Ma stai facendo piano tu? Sì, sì. Sei pompente? No, no. Ok. Adesso sto pompando, guarda, c'è un trifo qua. Ma ascolta, ma il mio segnale com'è? Vuoi essere prova, c'è qualcosa che non va. Sempre con lo spazio. No, va bene allora. Però non te ne dai conto perché noi siamo vicini, capito? Quello è. Che pare mi sempre per te. Sì, no, se vai a che variazione già me l'ha vinto. Guarda apparecchio tu. Ecco, super bravo. E adesso puoi fare questa così, senza fare niente. No, l'hanno toccato io. Già, perché stavano in banda laterale, lo devo girare. Ah, lo devi programmare più dall'esterno. Cappa, mi senti ancora? Sì, sì, adesso va bene. Cappa, cappa. Adesso è forte e chiaro, è normale. No? Prima era che non capivo ma con chi tu, te la riso. Se non lo dici più tu anche tu non ho capito, più quello lì se vuole portato e fatto centrato, ecco cosa ne soccupo, cioè tu per andare in banda laterale dovevi toccare da dentro. Yes. Non è normale. Non è normale questo. Perché vuol dire che è pure frequente. Capo, adesso è giusto. Adesso sì. Però come ce l'hai fine cosa? Zero. No, ho comunque spostato. Fa una cosa, mi capi la mano pulina e lo metti al centro, così almeno sai che così c'è entrato. Ma sì, cioè quando io ti sento più forte vuol dire che è a posto. E beh. Cappa, non è trovato nessuno. E io sto cenando adesso, io stavo cantando fino adesso. Poi adesso provo a accendere a vedere se c'è qualcuno. Vai, vai. Ma chi è? Beh, tipo che sapete cantare. Marco, basta che ti metti anche tu. Ma io sono un cipitone, non ho mai cantato nemmeno da piccolo, è un peccato. Buonasera a tutti, sono entrato solo a salutare che stiamo espletando cose al computer, casini in arrivo, volture in arrivo, bla bla bla. E la mafia fa la testa, la mafia, non c'è più la testa in queste cose. Marco, ti mando la questura a prenderti così tanto andando in questura. Gianni, un po' più di volume. Volume del telefono, del microfono. Se possibile. Al massimo, allora la batteria scarica della cambio. No, sembra un baracchino normale, omologhi. Ma è bassa la modulazione, controllo a vedere se mai chi è abbassato, ma l'avevo fatto questa osservazione anche l'altro giorno. Diciamo non è bassa, è un volume normale, sono io assudronato, tanto cioè, lo sento Gianni con un volume normale, non amplificato come lo sento di solito, capo. Volume normale. Ascolta un attimino, siccome ha avuto qualche variazione, com'è? Da me? Fammi vedere. Come te la prova? 9.25, non sei al massimo, vero? Prova adesso. Vai. 1, 2, 3, prova. No, 9.25. L'altra volta eri arrivato persino a 9.30. No, non sono al massimo. Ah, paghi su, Elia. Ti stai consumando corrente, dai. Cioè, stai risparmiando corrente adesso. Già non vedo, via. Va bene, signori, buon proseguimento. Ci sentiamo quando potrò. Gianni è andato a cercare la batteria di ricambio. E non durano queste batterie microfoniche. Giorni. Tempo un mesetto, un mese e mezzo la trovi scarica, eh. E si scarica da sola se lo lasci fermo. Se vai a controllare col tester, in certi microfoni c'hai un miliampere o anche meno, mezzo miliampere, però piano piano ti rimagna la batteria. Ho messo un altro microfono, guarda come fa. No, sei ancora più basso già, questa è bassa. È strano, ma l'apparato è lo stesso, il mic gain è il controllo dell'apparato. Vero, Antu? No, è un po' strano. A Napoli c'è la macchina, guarda lei. Bene, adesso bene. E cosa avevi, il mic gain chiuso? E allora, io... Ho alzato le RFI. Lo sai che a me me lo fa spolverando anche, se a volte col pennellino, con lo straccetto, spolverando si gira il coso e manco te ne accorgi. Sì, naturalmente già l'eco è molto, è un po' sovrastante, come dire, lo dovresti un po' mitigare. Va bene, signori, vi lascio. Ciao Gianni Antonio da Scontoni, riprendi Antonio, guardi ti. Avete parlato in due. Aspetta un attimino, come sta andando la radio adesso, Marco, che ho messo l'altro microfono? Adesso è una radio esplosiva. Qui c'è il mic gain chiuso. E allora, ho passato l'RFI invece che il mic gain. No, adesso è una bomba, una bomba. Va bene, ciao. A intindizi. Ciao Marco, dai, la benedizione ce l'hai là, adesso qui. La benedizione. Ciao, ciao. Vediamo se c'è Natalino, l'ascolto. No, c'è qualche devoto di San Pio? No, per saperlo, niente, cose mie. Ok, ciao a tutti, ciao. Oh, è fatto una domanda, sì io. Gappa. Io un po' usita parecchio, ma oh, se tocchi qualcosa non va più bene. Vendo. Se va mai già te lo dico. Gappa gappa, va. Vieni, gli ha fatto bene che cosa che non anda. Quello lo devi portare a coso e te lo metti a posto. Se ti metti le frequenze a posto, va bene. Tanto che l'ha creato. Vabbè, magari si è spostato da solo. Ah, no, tu l'hai spostato, è vero. Tu perché non ti vuoi rimanere di dico io. No, io l'ho portata per andare alla terrazza, no, non ci va, perché ha un po' di problemi la ebbe. Ma vuole fatto vedere se ha problemi. Se no, se ci devi spendere molto, ti compri il mio, sta sulle base. No, ora non mi voglio un occhio. Perché non ne voglio? Per casa sono molto meno le stazioni in base, te la sicuro. Avanti chi vuole entrare. Avanti chi vuole entrare. Lo so. Cosa? Dico, piace la perla, ma perché va molto meglio adesso? Che ci potrebbe stare, però ci devo pensare adesso, ancora non viene di là Barabà. Barabà si ci coccò. Vabbè, adesso trovi un lavoro fisso, così almeno sei sicuro. Allora, ti giuro che l'avrei anche messa qua in salotto. Cosa tu? se l'avrei messa, avrei messo il baracchino sotto. Infatti, lì sono andati, funzionava bene. Poi, vabbè, una base americana, non è lì si da Trieste. Ma tutto. Cosa? Ma tutto. C'ha le bande laterali, le FM non c'ha, le FM non lo fanno lì in America. Ma il driver non andava mai su le FM. Se no, lo aggiusti, quello lì te lo fai mettere frequenza. Pensaci, c'è quello di cose terribili, quello dove l'ha portato, come si chiama, Carlo, dove ha fatto aggiustare anche il mio, quello lì è bravo, quello in 2 giorni te lo dà. Ma questa è l'idea? Sì. Qui Carlo c'ha il numero e tutto, Albino è me. Quello che modifica i barattini ed aggiusta. È a buono lei. Capito? Io è perché a numero è. Cosa? Dov'è Albino? Dov'è? Albino di buono è. Che significa asino che fa? Perché sta cantando l'amica mia. Ah sì, che bella voce. Ah, basta per i mondi. Aspetta. Scherzando. L'apparecchio a Carlo, a me, so acquistato molti apparecchi, li ha modificato, ne ho venduto modificati, e proprio anche facendo gli apparecchi modificati. Se capita, magari ci vai con qualche amico. Certo. Ti chiamo tra un po', Anta. Cosa? Che ti chiamo. E io. Il telefono è in carica, intanto ce l'ho vicino. Ho visto lei, ho visto lui, na na na na na na. Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, hola, come mi ascolti? Sto uscendo, sì. Ora, ora, ora. Ora, ora. Chi è là? Aspetta che prendo la scagliola. Chi è? Chi sei tu? No, chi sei tu che me l'hai chiesto? Sai che stavo regolando lo stazionario, vai! Dove vuoi andare? Dove vuoi? Ci vuoi c'hai rocchi, c'hai rocchi! Allora, quando uno entra in un locale si deve presentare, se non si presenta ciccia. Poi io ti dirò il mio, però tu devi entrare e presentarti chi sei. Ah, sì, ok. Questa è la legge del CB, poi se tu non la conosci te la faccio conoscere io. Ah, ok. Antonio, ci sei? Attenzione Antonio, ci sei? Oh, Antonio, Antonio, Antonio, ci sei? È andato. Hola, hola, attenzione ai canali 10, c'è qualcuno? Ci sono io. Attento, bombolino, bombolino, bomboletto, ci sei? Vabbè, non ci sono simpatico. Attenzione 10. Attenzione 10. Amanti. Ah, chi è? Io. E chi sei tu? Io. Ah, ciao io, mi hai ascoltato. Ciao a te. E tu chi sei? Io due. Chi? Chi sei? Io due. Io. Tu se ci sei, se non me ne sto andando. Sono qua. Tu muovi che non siamo tu. E chi sono? sono 62 a sera, non lo devo sapere io. Quanto io sono, no? Deficiente. Ma vabbè, deficiente sarai tu da quando sei nato. Adesso io con la gente guasta non ci parlo. Ah, Gianni, per carità, non conosci neanche gli amici. Ciao Antonio. Ciao Tony. Gianni. E cosa è successo? C'è Antonio che è entrato e niente, Gianni, io, chi sei, chi non sei, gli altri sono Antonio, io con il deficit non ci parlo. Gianni, rientra. No, è lui che non si è presentato quando è entrato, ha detto come ti sei, e lui mi ha detto dimmelo tu chi sei. Quando uno entra deve dire il suo nome attivo, per cui io non l'ho riconosciuto, per cui poteva essere qualsiasi persona. Ma ha detto sono Antonio, poi. No, io non ho domanda, quindi. Ma che Antonio è? Diglielo tu. Forse Tonino, va. Antonio? È quello che ti ho mandato. C'ho fidei, ok. No, Antonio Momolo, l'altro Antonio. Certo, no, ma io faccio un po' più un po' là, però quando succedono queste cose che mi irritano, mi passa la gana, perché io vedo per rilassarmi, invece non ho riconosciuto questo Antonio chi era, non ho voluto dire il nome attivo, eccetera eccetera. Adesso sto pensando che sia un Antonio che conosciamo tutti e due, ma non è possibile, la voce è diversa. Non mi esprimo, se vuole entrare entra, se si vuole far riconoscere si fa riconoscere, vabbè, va bene così, dai. Vabbè, dai. Ciao Tino, ciao, ci sentiamo, ciao Antonio, adesso non anch'io, dai, non ne ho voglia, ci sentiamo magari un altro momento. Io non faccio comprare un cazzo, comunque, va bene. Gianni, guarda se sei, se c'è qualcuno che vuole qualche cucciolo di poco tedesco, Bellini, pochi mesi hanno ancora. Ma solo il tedesco, ma puro? Ti mando la foto. Se è puro, chiama Roberto subito, e lui ti mando la foto, va. Ciao Gara. Vabbè, ma sono due pastori tedeschi, sì. Col mio è incrociato, ma è preso tutta la mamma, No, lui li fa fare le gare, capito? Mi porta a fare le gare, quindi non lo so se vi interessa. Magari per campagna, sì. Vabbè, non sai che io non ne ho un cane. Il mio, per dire, è puro, puro, puro, ma pedigrino ne ha. Quindi non posso dargli la garanzia al 100%, capito? Cosa vuoi dire? Sono tutti e due puri, però pedigrino ne ha. Solo che uno è rot e l'altro è questo. Ah, stiamo con le foto, vuol dire che è di successo. E manda, ma lo volevo vedere. Ho di fare una cosa con questi cani. Ascolta, tu 3 o 4 te li prendi? Infatti, lui ci viene mezzo a dozzina da parte. No, sono voi per campagna, te lo capito chi è? Poi, lascia perdere, c'è un gatto che andate mi avanza. Ho capito chi è il fanfarrone adesso. Ascolta, ma quel gatto è castrato, quindi. Non c'è niente, anche il padrone. Anche se devo fare ragione io. Non ho capito di due, scusami. Ui, ma quando mai già? 40 anni che mi stai ascoltando. Quando mai non mi riconosci quando mi senti? Ha una radio diversa, sicuramente stai usando qualche cosa di diverso. Ma no, è che entro una volta ogni 20 anni e quindi man mano che invecchio la voce mi cambia, adesso mi sono mamma con due denti davanti. Vabbè, ti stai ascoltando con lui, se ti sento con una voce nasina, capito? Perché mi sono andato e mi sono prendendo a parte. Cosa fai niente? Sono caduto proprio. Ascolta la divina, questa radio ti piace? A chi lo stai dicendo? A te, che tu sei da tanto senza ascoltarmi. Va bene, dai, ne approfitto un attimino per salutare tutti e per scusarmi. Mi scuso con tutti e saluto tutti. E niente, sì, no, la radio è buona, sì. Corposa, mascolina. Sì, vabbè, peccato che non c'è più padre Francesco, se no ti avrebbe detto di baciargli il cordiccione. C'entra niente quello, no, non vedo bella corposa, bella, sai, di quella radio da confessione. Bene, bene, così mi piace. Anto, non è niente da scusarti, non c'è problema, non avevo riconosciuto una persona, per cui ho pensato fosse uno di quegli imbecilli che volesse rompere le scatole. Vabbè, già, dai, non è successo niente. Mi scuso io, è stata colpa mia, tu hai ragione, quando una persona entra al canale si deve presentare, ma siccome siamo 44 gatti in fila per 3 e ce ne rimangono 2, ho detto, mi riconosceranno, e poi ho detto anche Antonio, quanti Antonio ci saranno che rompono i coglioni che arrivano per 30? Anche io. Vabbè, dai, non è successo niente. Ciao, Magada. Anche io arrivo a bomba, Gianni, quindi... E tu sei il secondo Antonio, rompi i coglioni che arrivi 9.30. Mi cacciano le valvole. Mi. E per accendere anche il lampione del cortile. Aspetta domani. Mi cacciano le valvole e ti accendono la lampadina. Mi. Sì. Hai finito, Muscalo. Hai finito. Aspetta domani, sono scintille. Ma tre fasi? Mi Antonio se lo può mettere a posto Antonio quell'apparato. Non mi dici a me, non mi dici. E la mette le frequenze. Ti faccio la fotografia del mio laboratorio, ti metti le mani in testa. Poi cos'è? Cosa c'ha e perché dovrebbe mettere in frequenza? Ah, guarda, un po'. Sto sentirmi un po' bene, per fine corsa, bisogna tirare un po'. Ma che apparato è? Sto qua a 3006. E come ha fatto a andarsene fuori frequenza? Non me ne dico. Ma lo fa caldo, a freddo, a semitepido, sempre. Sempre. Tu lo accendi e va fuori frequenza. Allora c'è stai 10 ore acceso, sempre fuori frequenza. Sempre, e non devi girare appena appena la cosa, il fine corsa. Allora è perfetto. Ma appena appena quanto, scusa, se non ti sento. Ho scritto fine corsa, però ci sento la differenza, capito? Sì, ma se le altre persone ti sentono male e tu muovi il fine corsa, a meno di 2 kg ti sei spostato. Sì, sì, sì. E quindi non è poco, non è? Quindi bisogna agire sul VCO. Cosa cazzo mi so io, comunque adesso funziona. Stiamo mettendo quello che funziona. Stai usando quello? Sì. Sta funzionando, vuol dire che a caldo funziona. No, funziona, se non giri funziona sempre. Ah, ti devi sempre girare col fine corsa. Veglia, se no ti ci vado a canare puro. Scusa, mettiti un attimino normale. Che cosa? Metti il fine corsa al centro, tu. E fai un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova. Adesso sento lo stesso. Ma così sei giusto al centro. Veglia. Fai un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ora, ora. Io non ti sento ascoltato. Ma secondo che apparecchi usa non lo sento, capito? Come secondo che apparecchi usa? Spiegami un po'. Gli apparecchi hanno tutti quanti con la frequenza. Se sono allineati ti devono sentire per forza. Io ti sento benissimo. Devo ascoltare un pochino, se no ti sento un po'. Sì, io però. Avete parlato voi in due e uno di Torino c'era anche sottofondo. Non mi sono messo io in mezzo. Tu sei di Torino. Oh. Antù, poco fa usciva malissimo, l'ho sentito io e usciva malissimo, ma male, però poi come ha usato il file corsa si è rimesso a posto. Lo so già, ma se lui adesso ha detto che il file corsa l'ha rimesso a posto, e l'apparecchio sta uscendo bene, io l'ho provato a centrare ed è giusto, quindi vuol dire che o glielo fa a freddo, solo a freddo, oppure niente. A me è centratissimo. Io per sentirmi in grado di Dio per tirare appena appena. Ma vabbè, dai, è come l'asilo. Riprendi tu, piccolino Antonio. È sempre stato un casino, è un casino salato. Che caspita però. Antonio, piccolino, riprendi tu, dimmi cos'è. Allora, se lo devo girare appena appena per sentire bene a voi. Se c'è un apparecchio e lo sento un po' male, capito? Un pochettino. Quindi lo devo girare appena appena per sentire bene voi, capito? Quindi praticamente non sei spostato in trasmissione, sei spostato in ricezione, nel senso che tu ricevi male, perché a trasmettere stai trasmettendo giusto. Per capo, poco fa l'hanno girato più, un po' di più, eh? Sì, ma non hai capito, il fine del corso serve solo per la trasmissione, non per la ricezione. Cioè, nella ricezione ti aiuta un tantino, ma perché? Perché gli altri sono fuori. Però quando stai usando tu, che ti sposti, non è che... Cioè, se hai quel problema lì, c'è un problema in ricezione, non in trasmissione. È un pochino così, però l'apparecchio è perfetto, va bene. Sì, non lo metto in dubbio, anche la mia macchina va bene. Se la macchina è parte, mi porta a lavoro, però è da un po' che un cilindro solo non sta funzionando. Però beh, a 3 cilindri mi va bene, tanto a me ne fanno più a 3. Ma poi è perfetta allora. Sì, i 3 cilindri la mia fanno l'amore. E poi come sia perfetta così? L'ho fatta aggiungere 4 valvole in più, adesso ho 3 cilindri, 65 valvole, 120 cavalli. Ok. E te aggiungo. No, sei spostato sicuramente in ricezione, Antu. Quindi praticamente ti senti un po' male, ti devi un po' centrare, ma non è un problema. Cioè, se lo vuoi fare. fare allineare lo puoi fare allineare, per carità, ma non è che sia un dramma. Perché ormai se lo usi spesso per 1, 2, 3 mesi magari si riallinea un po', perché sicuramente è un problema di elettrolitici che stanno perdendo valore. Per cosa, ragazzo mio? Dice, non è solo io. Vabbè, dai, riprenda qualcuno che così me ne toglie il mic di mano. La riprendo io e vi saluto tutti cordialmente. Ci sentiamo, buona serata a tutti e buona continuazione. Ciao! Ciao, già, dove stai andando cordialmente? Como? Ho detto cordialmente, dove stai andando? Sto andando a farmi una cantata, dai, che c'ho un contest da fare. Ah, ok, canta anche per me allora, che non c'ho più voce. In quest'ora mi piace cantare. Lui in quest'ora sta andando a cantare già. Non piace un gruppo. Ciao Gianni, ciao. Mandami quell'animale. Eia. Eia, ciao già. Buona cantata. Che ne sono andati già, che sono andati. Va bene, va bene, va bene. Noi, poveri noi. Cosa stai utilizzando tu? Supercar 140, non so neanche se c'ho l'antenna attaccata a questo. Adesso sto controllando perché c'è il filtro acceso, il magnet, il fatto detto, non so neanche con che antenna sto andando. Forse con questo sto andando col capo. Ah, beh. No, non si direbbe, per la modulazione non è amplificata come dovrebbe. No, non ne ho il palmarino, non l'ho più usato, il 60 che non sarebbe il cazzo, aveva dato problemi, ce l'avevo buttato in un angolo, niente. No, sì, lo sai cos'è? Che non riesco a capire, nel commutatore dell'antenna avevo segnato le uscite. Adesso qua c'è un malinconio, non capisco niente. Poco fa ho provato il punto e stava andando e mi sentiva. Poi ho portato il commutatore, nell'altro, non so, questo è il segnale più forte che ricevo, in questo sicuramente l'antenna è collegata qui. Non lo so, quasi 9,95, sto andando da 9 a 9,5 a picchi positivi. Adesso ho cambiato il mic, ti sei accorto di qualcosa? No, la voce è sempre buona, però la cara è più corposa forse, non lo so. Perché mai che sembra che è cambiato apparecchio? No, guarda, questo è il primo, tieni presente un pochino questa modulazione, così almeno mi dai conferma anche tu, adesso ti cambio il microfono, solo il microfono. Mentre invece questo è l'altro microfono, questo è l'originale di questa radio. Preferisco questo. Allora, uno era l'MC60, questo invece è l'MD100. Preferisco questo, si porta presso meno rumori della stanza. Vero, l'altro è un pochino più medio-alti. Sì, no, questo è più calmo mio, una modulazione più chiara, più... L'altro si porta presso qualche cosa della stanza, sai, l'eco, il rimbombo, quell'effetto lì. L'effetto di quei microfoni, sai, che dicono che sono amplificati a 1000, invece si portano presso un sacco di casino. Ho capito. Ma vabbè, questo magari, guarda, se mi avvicino di più magari tende a... sono a 10 cm dal mic, ma io non sono abituato a mangiarmi il microfono, quindi mi devo sforzare. No, va bene, no, io ti sento benissimo. Anzi, questa modulazione è molto chiara, molto... come si dice, molto allineata, molto spaccata, limpida, non è di quelle classiche modulazioni quando parli, alcune parole si mangiano, altre si fraintendono. Questa è proprio giusta. Allora, abbiamo fatto un buon lavoro, perché abbiamo interagito dal menu interno, è un casotto questa... ti mando la foto di quello che sto usando. Lo posso immaginare. Dai, fai riprendere anche ad Antonio. No, non lo faccio riprendere, non mi piace, non lo faccio parlare, così impara, ecco. Monello Antonio, ecco, Monello. Ah, c'è problema. Sto scherzando tu. No, c'è problema, dai. Poi domani facciamo la prova, ma domani dobbiamo fare delle modifiche. E cosa devi modificare, Antonio? Salire a sentire, eh. Oh, capo, vediamo cosa dice. L'avevo proprio cambiata, devo. Ah, ho capito, togli l'antenna, cosa metti? L'altra ringo che ho, quella che c'è una sassa di vecchio. E adesso cosa stai usando invece? Una ringo. Ah, sei un amante delle ringo tu? Ne ho parecchie. Cioè, ne avevo tre, una l'ho regalata, l'ho data, non me fregava nulla. A me piacciono anche i papacini, i pavesini. Ma che ti ho mandato la foto? Non sul ringo, il ringo già mi piacciono, però sai, come mangi troppo la cremina mi nausea. A vedere chi è se... Accidenti, non dico se li fa anche a me a regalo, cazzo. Davvero? Ma a proposito, i pezzi di mantova, vantati, ce ne sono tu. Ma dove vanno a Cristian? Sì. Ma non le buttare, non le buttare. Andare, io gli ho regalato un'antenna nuova a Cristian, nuova in busta a me, però era una mezz'onda, dai, una... Cos'era? La Grand Prix, nuova. Ho piazzata, almeno due chiacchiere, due parole, insomma, la campagna già arrivi. Vabbè, io quella che aveva in campagna l'avevo data a lui, erano solo quelli i pezzi che avevo, l'avevo fatto una, l'avevo data a lui. Cazzo. Andà a Bex. Ho un mal di testa, cazzo. Io me l'ho fatto venire stamattina mal di testa, perché non sono andato a lavorare, avevo l'appuntamento dal medico che mi voleva conoscere, ma ancor prima ho dovuto portare la macchina dal meccanico, quindi già da lì mi è salito mal di testa. Poi anche io la devo lasciare adesso in settimana al meccanico a farmi fare alcuni lavoretti, perché me l'avrei potuto fare io, ma non ho più gana, poi sono impegnato, non sarà, devo andare a scuola, già lo sai. Vabbè. Ho dovuto lasciare perché più di 120 quella macchina non stava andando, non aveva più forza, non aveva più potenza, e adesso siccome sto facendo una strada dietro il quadrato, un giorno se ci passi già mi troverai lì. Abbiamo aperto quel muro che dove vai? Alla dinamo lì, non mi ricordo. A parte lo sport, dai. Abbiamo aperto quel muro lì e stiamo iniziando il cantiere lì. E c'è un sacco, cioè lì c'era una boscaglia, immaginati tutta la legna che ho fatto, ma articolati. Domani dobbiamo portarne via altri due. Insomma, la macchina mi serviva per un po' col carrellino, un po' all'interno, e farmi un po' di provvista qua anche. Ah, te la sei portato via tu la legna? E ti sei bloccata la macchina, adesso quindi non è né macchina né carrello. No, ho la macchina di mia sorella per domani, dopo domani. La stiamo portando in cantiere, poi a me quando mi serve, insomma, lui la vorrebbe anche vendere se riuscisse a trovare un compromesso anche per il fatto del... perché la gente non è che la vuole come la stiamo tagliando noi, noi la stiamo tagliando lunga 6 metri circa, perché sono alberi importanti, sono alberi grandi, capito? Non ho il video, sono sempre mandato qualche video di qualche albero che ho gettato, ma è eucalipto, non è che solo che sia fresco, quindi a grande bruciata ci sono passati almeno un anno e mezzo, sono due. E quindi vedi, ci deve passare il tempo, poi già l'eucalipto se ha un prezzo basso, se te lo devi anche tagliare magari non gli conviene, e comunque ci mette una persona per tagliarlo, tempo, fatica, ore di lavoro, e poi devi aspettare almeno un annetto per vendere, no, due anni no, ma un anno sì, e dopo cosa lo puoi vendere? A 8, a 9? No, a 8, a 9 no, a 8 lo vendi adesso che è fresco, quando è secco non lo vendi così, lo venderai a 10, diciamo di più. Lo so, vabbè, fai anche a 10 ti, però quei 10 sono quei due ore che recuperi dal fatto che io ci mi metto in uno a tagliarlo. Amico mio, vuole lavorata la cosa, non è che quando lo butti giù con lo scavatore scende già pezzato. Non lo metto in dubbio, però chi lo fa per vendere fa quel lavoro lì e dopo si lo vende, nel senso che invece a stipparlo, lo porta via, lo taglia, perché hanno già gli spaccalegna, tutto, lo tagliano, lo spaccano, lo stipano e poi si lo vende in forza. Ma è forza d'inverno che lo vendi, perché la legna comunque ancora la comprano. E come? E ce ne sta sparendo, adesso abbiamo chiuso, ma so già anche chi è, ma uno che conosco e gli ho dato un po' di carta bianca, dai, nel senso ce la diamo noi, vai, fatela. No, ma ripeto, ormai neanche le pedane ti regalano più. Io ne stavo cercando un paio l'altro giorno perché mi servivano per fare degli spezzettoni di legna, sai, quelli che servono per accendere la braccia quando vado a fare lo zitto. Oh, non vi dà più nessuno, ormai come arrivi lì, se erano portati via ieri, c'erano ragazzi anche delle pedane. Lo so, lo so. Antonio sta facendo karaoke, quindi non sta più lavorando come bombolaio e quindi tocca risparmiare anche sul gas, vedi? No, cioè, proprio karaoke no, stavo lavorando per una ditta che fa impianti, audio, luci, stavo lavorando con la Rock House, stavo lavorando, adesso siamo un po' fermi, adesso vediamo a Capodanno se riprendiamo a fare qualche evento grosso. A me mi ha detto Gozo, Alberto mi ha detto che dobbiamo fare di Capua, però bisogna vedere. Vabbè, io questo è un lavoro che non costa, nel senso che devo ripiazzare il parco, le luci, questa roba qua. Audio, luci, facciamo. Il parco se lo piazza la ditta, deve piazzare, ecco, noi facciamo l'audio e le luci. E portare l'audio è pesante a spalla, quindi è sacrificante anche. No, è tardo, ci sono sopra i carrelli, scendi giù col camion. Già, se prima lo stavi tu perché sono tutti i bauli, tutte a ruote. Quando lo devi mettere sopra ci vuole forza, quando devi unire uno con l'altro. Noi abbiamo il sistema LRE, quindi è un sistema a cascata, cioè pompa un bel pompa. Non llega. Chi è? Avanti. Ti ripeto, è pesante perché sono casse grandi, capito cosa fa. Questo lavoro lo paga il vino stesso, quindi molte volte dice che torna stremato perché a parte gli orari anche il lavoro è sacrificante. Vabbè, ognuno il suo. Riprendiamo tu. Alle 5 10 del mattino rientra secondo come vai, è sacrificante, sì. Avanti. Vabbè, non ce ne sono, sì, ormai dei lavori che non ti impegnano in maniera così tanto, sempre quelle ore devi lavorare, chiaramente invece di fare, che ne so, dalle 8 del mattino alle 5 di sera, fai dalle 5 di sera alle 8 del mattino. Vabbè, l'hai vista la fotografia? No, sì, ho il telefono su perché se lo porto qua giù non riceve, quindi non l'avrei vista comunque. Ah, beh, vabbè. Guarda te la con calma, non so, forse l'avevi già visto, quello nero. Però una cosa ti dico così, bisogna ordinare. Sì, lo so. Hai visto quello nero, ma tu? No, non l'avevo visto la foto ancora. No, sembrava di sì, comunque. Vabbè, te ne parlo in verticale, dai. No, non avevi detto niente, non niente. Siamo subito quando ero, quindi 2 anni fa, io, quanti giorni facciamo sentito? Stavo dando un esame, sì, non avevo dato l'esame, ok, 15 giorni fa mi sembra, e poi niente, e ieri dovevo dare un altro esame, e infatti non sono andato, mi sono preso una giornata libera oggi, che ieri era il mio compleanno, non la sono preso libera oggi perché ieri non potevo. L'augurio, non ci ho fatto caso, no, auguri, auguroni. Quanti? 52, come i vecchi. Ah, un anno più piccolo di me, sì. Sì, io sono del 71, ma un anno più piccolo, sì. Sì, 52, e siccome ieri non era possibile perché avevamo questa... avevamo prima un incontro, poi c'avevamo una sorta di esamino, di test al computer, quindi non facevo. Ho detto, no, lo prendo oggi, solo che oggi mi sono preso la giornata, e l'ho preso una giornata a buca lo stesso perché mia moglie sta lavorando, e Emilia è ritornata poco fa dall'università, quindi io... Vincenzi, sì. Meglio così. va bene, chi è avanti, chi è che sta dicendo Vicente Zitti, chi è avanti? Buonasera, Vicente Zitti. Io ti ascolto Basso e non so chi sei. Manuele, sono qui, ciao Tino, ciao Antonio e ciao da Sant'Antonio. Ciao Manuele. Ciao Manuele, ciao, è Mazzino qua, Mazzino. E pure tu non è che sei giovanotto, del 71 anche io. Va bene, ciao, un abbraccio. Dai, vi saluto. Vai a tu. Va bene, dai, vado avanti io, riserva, insomma. Ciao Manuele, mi hai ascoltato, e invecchiando. E per fortuna che ancora si riesce ad invecchiare. Per fortuna, che ancora ci sentiamo. Non dico che ne buca, l'aria non invecchiamo più. Insomma, più vecchio so io, dai. No, tu sei proprio vecchio, Doni. La mazza. No, tu sei proprio vecchio, vecchio, ormai la chiudo la Naule. Forse l'hai capito, mi fai da bravo, che ti posso già portare i fiori. Da te li porto io. Non penso proprio, no. Hai capito, ora che li porco. Oh, Tony, ormai no, devi cambiare il nominativo, non più Kawasaki, Torino Quercia. No, Torino ciao. Non ci comporto le virulite, comunque buonasera a tutti. No, quello è Torino Mimosa. Mi fai da bravo tu con le mimose, mi? Certo mimose. Torino che ci andremo. Già lo sentivo perché, forse non se lo vedano. Ma te l'ho raccontato lo scherzo che ha fatto fare a mia sorella, anche tu. No, questa storia è... Comunque bisogna arrivarci a Creta Miami, non ho capito. E ancora grazie a Dio, me la sento. È vero, è vero, è vero. Stavo parlando dalla Chira, c'è la mia sorella, stavo parlando dalla Chira. È stato Torino, ciao, come stai, affetto dalle donne. E io a casa con le mimose, solo l'ho aperto io, se ce l'ha avuto male. No, ma l'ha già dato giù le mimose, fai da bravo. Sì, già. Però vedi, un gentile uomo, voglio portare le mimose, dai. È una bella persona. No, vabbè, un atto di gentilezza, dai. Sì, no, per carità. Vabbè, sono quelle cose che si fanno. Oh, si fanno, si facevano, ma non le fa più nessuno. Faccio le mimose e te ne mandano su Instagram. No, adesso le fanno pagare, prima te le regalavano. No, ma te ne mandano su Instagram, come le supposte. Ormai non te ne mettono più per il culo, te ne danno la bocca. E ci avrei fatto un messaggio da cantiere. Dici che non ci vai. Bravo, bravo, vai tiro a lavorare, che per me, che io sono pensionato, mi devi pagare a me. Ma io sono il nero, mica te ne pago a te. Te, bubu. Male ti sei avuto. Non c'è più religione tu. No, si è trovato bene con me, sì. Ma tu sta parlando con due che lavorano in nero, quindi allora bisogna che vi faccio la letterina, scrivi, tu c'eri sindacalista e io, vabbè, dai, ci sono gli altri che lavorano per me. Ah, allora non chiedici niente a noi. Guarda, perché tanto a me non mi piglia nemmeno. Dai, che comunque è meglio, perché domani piglio una bella pensione, dai. Io ho sempre pensato assicurato, grazie a Dio, e non mi posso lamentare, sì. Vabbè, ma tu la tua strada, grazie a Dio, l'hai percorsa, quindi la strada ancora percorrendo in quello che hai accumulato, e va bene, va bene. Sì, io lavoro tutti quanti così, purtroppo sento persone che pochi contributi, capito? Io sono arrivato quasi a 40 contributi, non sono manco pochi. Ascolta, non per sapere le cose tue, se le vuoi dire le dici, se non le vuoi dire te le tieni, no? Senza offesa per nessuno. Quanto è oggi, come oggi, uno che va in pensione, praticamente la paga mensile, ecco, giusto per, in base ai contributi che hai versato tu però, Capo, io prendo quanto lo prendevo più o meno dello stipendio prima. Quanto? Più o meno quanto lo stipendio. Ah, quindi, per dire, se uno oggi lavora per 1700 euro, a fine corso, diciamo, avrà questo diritto. Qualcosa è meno, che poi 1700 non è migliore nessuno, non ti preoccupare. Io ti dico chiarezza, papale, ti danno molto di meno in pensione, allora io prendevo 1350 mensile e di pensione prendo 1250. Vabbè Tony, grazie a Dio, voglio dire, lascia perdere, ma va bene, non è che non vada bene. Certo che va bene, stesso persona per venire a chiedere 100, 700, 800 euro, chi 600, cioè, poi non parliamo di quelli, come si chiama, quello che lavorano a conto suo, i falegname, eccetera, artigiani, gli artigiani vengono la miseria, poverini. Tanto allora bisogna fare un gruzzoletto, perché a noi non ce ne tocca, quindi inizia a conservarci già adesso. Io vuol dire che 2000 me ne metto da parte, 2000 me ne consumo. Scusate, e poi c'è questo, Tino, prima mi ricordo che era, si partiva con 5 anni, 1000, e poi prende la pensione minima, gli ultimi 5 anni, e man mano sono saliti e oggi sono già minimo 20 anni di lavoro i contributi versati. Ancora non so, sì. 25 quanto aumentano, ma c'è già la voce in giro. Già può essere, già può essere. E vabbè, purtroppo, tanto lo sai, chi comanda sono sempre loro. Lo so, purtroppo è così, non ci vuoi fare, infatti mi faccio qualche lavoro in nero io. Io già sto arrotondando bene, ti, perché tanto qualcosa che avevo ritmo primo e poi finito a lavorare in pensione, c'è qualcosa di nemmeno, insomma, per recuperare devi fare qualche usato, io lo sto facendo e mi trovo bene, grazie a Dio. Ho sempre lavorato assicurato e lo auguro a tutti quanti, dai, di prendere una bella pensione, perché questo governo mangia sempre. Buongiorno, mi sentite? Sì. È vero, è vero, metti, stavo per chiamare, che ti sentiamo, sei 9:20 quasi. Buongiorno anche a voi, salutiamo a tutti. Antone, sei 9:20 qua. 9:20 sono, meno male, è la ora, è per Dio, comunque sia, vabbè, 50 watt, saturazione niente.